Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. A Tallinn il vertice sull'immigrazione, Germania contraria all'apertura dei porti, la Spagna dice i nostri sono già sotto pressione, Bruxelles ribadisce bisogna aiutare l'Italia. Russia aggressiva e destabilizzante, dice Trump da Varsavia e aggiunge ha interferito nelle elezioni americane, impegno cinese intanto sulla Corea del Nord. Omicidio stradale, 32 arresti e 479 denunce dall'introduzione del reato, aumentano del 7,4% le vittime della strada nella prima parte dell'anno. In corso lo sciopero del trasporto pubblico locale, disagi soprattutto a Roma, dove non viaggiano le metropolitane e il 90% degli autobus. Boom della spesa delle famiglie nelle grandi città, un più 10% nel 2016, cambia la dieta degli italiani, sempre più frutta e sempre meno carne. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666, come sempre il numero per SMS e WhatsApp, e c'è anche la nostra diretta video su Facebook dalla pagina di Radio 24, da quella di Effetto Giorno, e se volete potete anche scriverci là appunto durante la diretta. Iniziamo anche oggi tornando a parlare di immigrazione, mentre si susseguono le dichiarazioni europee e anche austriache, che ha parlato poco fa il cancelliere Sebastian Kern, nelle quali si dice che l'Italia va aiutata. I segnali che sembrano arrivare da Tallinn dal vertice sono un po' diversi. Valentina Furlanetto, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Simone, sì, in effetti sono contrastanti i segnali che arrivano dal vertice in Estonia, dove un vertice informale si sono riuniti i ministri dell'interno dei vari paesi dell'Unione, perché questa mattina all'arrivo alcuni ministri avevano parlato insomma di apertura verso l'Italia a parole, ma per quanto riguarda i porti hanno detto resteranno chiusi, poi sentiremo uno di loro. Poco fa in realtà Marco Minniti, il ministro dell'interno italiano, lasciando la riunione, ha detto che è andata secondo le aspettative, perché ha detto l'agenda era già stata disegnata nell'incontro di Parigi di domenica e dalla Commissione europea, e secondo Minniti c'è un accordo quasi unanime su tre punti: la Libia, il codice di condotta delle organizzazioni non governative e rimpatri con la stretta sui visti. Contemporaneamente al Parlamento europeo in queste ore tra l'altro è stato approvato in via definitiva dalla plenaria del Parlamento un fondo da 3,3 miliardi per i paesi di origine, quindi in parte quello che dice Minniti, un fondo dell'Unione Europea che punta tra l'altro a mobilitare con l'effetto leva 44 miliardi di euro in investimenti privati in Africa e nei paesi vicini, quindi andrebbe incontro alle richieste dell'Italia. Dal vertice di Tallinn però dicevamo anche altre notizie più negative per l'Italia. In pratica agli espliciti no di Francia e Spagna comunicati nei giorni scorsi, avevano detto i nostri porti sono già sotto pressione, l'hanno ribadito anche oggi, se ne sono aggiunti degli altri questa mattina, dicevamo. Il no primo è arrivato dal ministro tedesco all'arrivo, sentiamo. Siamo assolutamente contrari, dice, a una regionalizzazione delle crisi, vale a dire che i porti tedeschi resteranno chiusi alle navi con a bordo migranti, così ha detto Thomas de Maizière, il ministro degli interni tedesco. Lo stesso hanno detto il ministro belga, il padrone di casa estone, ed è stata bocciata anche l'altra proposta dell'Italia, che era quella della richiesta di rimodulare il mandato dell'operazione Triton per indurre gli altri paesi a condividere il peso degli sbarchi. Il commissario europeo alla migrazione Avramopoulos ha detto che va bene così, il mandato è chiaro e non se ne parla. Per ora è tutto. E grazie dunque a Valentina Furlanetto per questo aggiornamento. Andiamo adesso sul territorio, andiamo al confine e andiamo nella fattispecie in Austria. Polizia, controlli, chiuso. Col tedesco imparato in questi tre anni, Salà sintetizza bene la situazione attuale in Austria e in gran parte dell'Europa, dove sta diventando sempre più difficile entrare e soprattutto spostarsi. Lui e la moglie sono arrivati a Gris am Brenn attraverso la rotta balcanica all'inizio della crisi siriana e così ora seguono a distanza le liti delle capitali su confini, redistribuzioni e rimpatri come sui blindati lasciati in caserma. Li vedono gli altri migranti, sempre di meno, che tra queste montagne provano a superare i confini anche a piedi, come li vedono gli austriaci del borgo, divisi tra solidarietà, paura del terrorismo e campagna elettorale. le persone che hanno fatto una camminata lunghissima da qua fino insomma in Austria e sono state riportate indietro. Il fallimento è stato un po' sicuramente molto più doloroso del dolore carnale, ecco. La delusione che i volontari hanno letto sui visi di questi ragazzi è la stessa di chi è ora ospitato in una palazzina del Brennero in attesa di conoscere il proprio destino. No, Germania non basterà niente, solo polizia prendo, vai a Balzano, non entrare Brennero. Prima, tante persone qua, adesso 22. Tallinn è lontana dal Tirolo, ma l'eco delle discussioni arriva fin qui. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Brennero. Ed è probabile che il tema dei migranti entri anche nelle discussioni del G20, il quale G20 ha una serie di prodromi a partire dalla visita di Donald Trump a Varsavia e alle parole molto dure di oggi. Sergio Nava, buongiorno. Buongiorno, il presidente americano Trump ha surriscaldato oggi l'atmosfera in vista del G20 che si apre stasera ad Amburgo in Germania. Tra 10 minuti circa si terrà l'atteso discorso di Trump in piazza Krasinski di fronte al monumento all'insurrezione popolare di Varsavia del 44, ma già nella conferenza stampa congiunta col presidente polacco Duda, Trump ha fatto dichiarazioni destinate a far discutere, ha ammesso che la Russia potrebbe aver interferito nelle ultime elezioni presidenziali americane, o meglio, si è limitato a un cauto nessuno lo sa per certo, e per cautelarsi ancora di più ha aggiunto che lo fanno anche altri paesi. Un colpo al cerchio e uno alla botte per non deludere gli alleati polacchi, il cui sentimento antirusso è ben noto. Non a caso, Trump si è premurato di aggiungere che insieme a Varsavia, Washington sta elaborando il modo di reagire ai comportamenti aggressivi e destabilizzanti della Russia. Sulla Corea del Nord, Trump ha avvertito che gli Stati Uniti stanno valutando cose piuttosto severe in risposta al recente lancio di un missile balistico intercontinentale. Il presidente americano ha chiesto agli altri paesi di far fronte al comportamento molto, molto cattivo di Pyongyang. Da Varsavia ad Amburgo, dove si prepara il G20, che si apre domani nella città anseatica, in un intervento pubblicato su Handelsblatt, il presidente russo Putin afferma di condividere le priorità tedesche del G20 e si dice a favore del libero commercio e della tutela del clima prevista dall'accordo di Parigi. Massima allerta, infine, nella città tedesca, dove sono attesi 100.000 manifestanti, di cui 8.000 considerati potenzialmente violenti. Prima manifestazione questo pomeriggio con lo slogan G20 Welcome to Hell. È tutto. E grazie dunque Sergio Nava. Sempre per quanto riguarda lo scenario internazionale, notizia di poco fa che arriva proprio dalla Russia. La portavoce del ministro degli esteri russo Maria Zakharova ha detto che la provincia di Aleppo in Siria è del tutto libera dai terroristi dell'ISIS. I governativi hanno cacciato i terroristi dalla zona di Kazanir, forzandoli a fuggire in territorio aperto nel deserto, dove sono stati spazzati via dai raid aerei russi, così la TASS, l'agenzia di stampa di Mosca. Siamo adesso, abbiamo parlato di immigrazione in apertura e poi ci torneremo più avanti, perché andremo tra l'altro e torneremo a Ventimiglia, dove la Caritas ha deciso e sta decidendo di non distribuire più pasti ai migranti perché non ce ne sono le condizioni, non c'è la possibilità. Bene, abbiamo parlato di immigrazione in apertura, parliamo di emigrazione, ossia degli italiani che se ne vanno. Sotto l'impatto dell'ultima crisi economica, che l'Italia fa ancora fatica a superare, la curva dell'emigrazione degli italiani all'estero ha ripreso a crescere e a emigrare sono sempre più i giovani, come spiega Ugo Melchionda, presidente IDOS. Giovani qualificati dalle regioni centro-settentrionali, abbiamo sicuramente la Lombardia che è al primo posto, ma anche Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio ancora. Perché? Perché sostanzialmente il nostro paese non è capace di utilizzare queste competenze. Tra gli italiani con più di 25 anni si può stimare che nel 2016 su 114.000 italiani emigrati siano 39.000 i diplomati e 34.000 i laureati. Le destinazioni europee più ricorrenti sono Germania, Gran Bretagna, Austria, Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svizzera, mentre oltreoceano Argentina, Brasile, Canada, Stati Uniti e Venezuela. Ma secondo IDOS è uno spreco. C'è un costo anche per il paese, perché immagini, ogni anno, abbiamo calcolato, di studio secondo i dati OCSE, costa qualcosa come 10.000 euro. Quindi una persona laureata o con un dottorato di ricerca significa per il paese una perdita netta di 230-240.000 euro. E questo non possiamo permettercelo. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo è il quadro dunque per quanto riguarda l'immigrazione degli italiani. Passiamo al rapporto annuale dell'autorità anticorruzione, dalla quale emergono dati interessanti e le dichiarazioni del presidente Cantone. Un anno, quello preso in considerazione nel rapporto anticorruzione non certo semplice. 32 gli appalti commissariati, 845 le istruttorie avviate, Consip, ANAS, RAI, ricostruzione post-sisma, centri di accoglienza per i migranti, gli ambiti di intervento. L'onda lunga degli scandali e delle indagini giudiziarie non sembra arrestarsi, rimarca allora il presidente dell'ANAC Raffaele Cantone. La stessa notorietà dell'anticorruzione aggiunge, certamente figlia della centralità che continua ad avere nel dibattito pubblico la tematica della corruzione. Certo, avverte Cantone, non è un organismo che può occuparsi di ogni forma di illegalità. Ci si è mossi rispetto alle centinaia di quesiti, richieste di chiarimento, collaborazione che vengono formulate soprattutto sulla materia dei contratti pubblici, in particolar modo dalle amministrazioni, precisando in un apposito regolamento che le risposte saranno fornite solo se la questione posta è nuova e di rilevanza generale, con la chiara volontà di non assecondare l'idea che gli appalti si possano fare solo con il bollino dell'ANAC. Il settore della sanità continua a destare particolare preoccupazione, dice ancora Cantone. Quanto al codice antimafia, le sue indicazioni non sono state raccolte dal Senato. Ne prendo atto, spiega, è giusto che sia così. Il legislatore fa le sue valutazioni. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ci sono misure contro i sospettati di corruzione nel codice antimafia che, tra l'altro, è appena passato al Senato, una notizia di pochi istanti fa. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, Simone, proprio così, 129 sì, 56 no, 30 astenuti, il codice antimafia è passato al Senato, è passata anche la proposta di coordinamento formale del testo, ovvero la correzione sull'anomalia delle coperture che era stata evidenziata alcuni giorni fa. Ma ci sono state anche discussioni questa mattina in aula prima dell'approvazione, perché dopo l'estensione del sequestro dei beni anche ai corrotti, oltre che ai mafiosi, il Movimento 5 Stelle ha proposto altre modifiche, ovvero voleva togliere la limitazione che prevede l'estensione delle misure cautelari ai corrotti, solo nel caso in cui si ravvisi anche l'ipotesi di associazione a delinquere. Bocciata questa proposta dal presidente Pietro Grasso, e ci sono state anche polemiche per le indicazioni espresse dal presidente dell'ANAC Raffaele Cantone, non raccolte dal Senato. Però Cantone ha detto: prendo atto, il legislatore fa le sue valutazioni. Ma ricordiamo, la notizia principale è stato quindi approvato il codice antimafia che passa alla Camera con 129 sì, 56 no e 30 astenuti. A te, Simone. Grazie dunque anche ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Siamo allo sciopero del trasporto pubblico locale che, come spesso avviene negli ultimi tempi, sembra colpire soprattutto Roma, dove la situazione è particolarmente pesante. Andrea Viali, buongiorno. Sì, è proprio così, Simone, perché nella capitale le proteste che sono state indette da tre sindacati autonomi hanno orari diversi e si prevedono quindi disagi per tutto il corso della giornata. Le tre linee della metropolitana qui a Roma sono state chiuse alle 8:30. Io vi sto parlando da Piazza dei 500, quindi di fronte alla stazione Termini, dove nei capolinea, dove abitualmente ci sono molti autobus, in questo momento non ci sono mezzi, il 90% degli autobus in questo momento è fermo nei depositi, mentre ci sono invece lunghe file di persone che sono in attesa di un taxi. Come spesso succede in queste situazioni, sono pesanti le ripercussioni sul traffico, perché chiaramente molti romani oggi sono stati costretti a muoversi in automobile. Nella capitale i mezzi pubblici dovrebbero comunque tornare a circolare nella fascia di garanzia pomeridiana, che va dalle 17 alle 20. Per quanto riguarda invece le altre principali città interessate da questo sciopero nazionale, a Milano e a Torino il trasporto locale si fermerà dalle 18 alle 22, mentre a Napoli lo sciopero si è concluso da pochi minuti, Simone. E grazie dunque ad Andrea Viali per questo aggiornamento. Siamo ai dati e sui consumi diffusi oggi dall'Istat. Crescono i consumi e la ricchezza delle famiglie, lo ha rilevato l'Istat nell'analisi dei consumi delle famiglie nel 2016. L'Istat ha scoperto anche alcuni cambiamenti nel modo di spendere: mangiamo meno carne, mangiamo più frutta e pesce, spendiamo di più per la cultura, il turismo e i passatempi. Al contrario della percezione di molti consumatori, nel 2016 la famiglia italiana è più ricca e ha acquistato più beni a prezzi più bassi, spendendo in media 2.524 euro, cioè l'1% in più rispetto al 2015. È il quarto anno di seguito di aumento del reddito disponibile, c'è un leggero aumento della propensione al risparmio e si consolida la ripresa del PIL. I dettagli. La spesa media per il cibo è salita a 447 euro al mese. La voce più importante resta la carne, ma spendiamo meno, 93 euro di carne al mese invece dei 98 che si spendevano nel 2015. Compriamo invece più frutta e verdura, il 3,1% in più. E soprattutto mangiamo più pesce. Più domanda di cultura. Salgono per il terzo anno consecutivo le spese per i beni e i servizi ricreativi, 130 euro al mese. E si riduce il divario con le zone meno ricche del nord-est. Jacopo Giliberto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, poi ci ritroviamo, iniziamo il nostro giro per l'Italia che ci porterà a parlare ancora una volta e anche oggi molto di immigrazione. Torneremo a Ventimiglia, dove la Caritas a quanto pare ha dei problemi a fornire i pasti alle persone che si trovano là, i migranti che provano e cercano. Provano a passare il confine. Andremo a Saluzzo, dove ogni anno si raccolgono centinaia di persone per la raccolta dei pomodori, però non si sa dove farle dormire, quindi si creano dei veri e propri accampamenti. E poi ci occuperemo anche di altro, ci occuperemo di Milano e della mitica vicenda dei biglietti gratis per San Siro per i consiglieri comunali. In questo caso riguardano i concerti, beh, ne hanno ritirati veramente parecchi, oltre 500. Sono biglietti gratis che sono riservati a loro, alcuni addirittura ne hanno ritirati 14. Ne parliamo tra poco. Traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, il 349-238-6666 per gli sms e i messaggi su WhatsApp e la nostra pagina Facebook, così come la pagina Facebook di Radio 24, dalle quali andiamo in diretta video. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato del vertice di Tallinn, delle dichiarazioni di Trump da Varsavia. Abbiamo parlato dello sciopero del trasporto pubblico locale che si sta facendo sentire soprattutto a Roma e dei dati dell'Istat sulla spesa delle famiglie nelle grandi città. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e con una piccola precisazione, come vi dicevo parleremo parecchio di immigrazione e di qualche problema che si sta verificando tra Ventimiglia, dove già siamo stati ieri, e Saluzzo, dove ho detto erroneamente prima, e abbiate pazienza, sono su questo, forse siamo un po' deviati da quello che vediamo. Abbiamo parlato di Saluzzo e ci arriveremo tra un attimo per quanto riguarda la raccolta. Ho detto la raccolta di pomodori. Un ascoltatore mi fa notare al 349-238-6666 che giustamente a Saluzzo non ci sono i pomodori, ma c'è la frutta. E i 300 migranti che sono là e non hanno un posto dove dormire, mentre insomma vorrebbero star là per lavorare, sono là per la raccolta della frutta. Ci arriveremo tra un attimo. Intanto saluto Maurizio Marmo, che è il direttore della Caritas di Ventimiglia e Sanremo. Marmo, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno. Oggi c'è questa pagina su una serie di giornali, in particolare in questo caso siamo sulla Stampa, nella quale il titolo parla del fatto che voi fermerete la mensa per i migranti, stoppa i pasti della Caritas, 600 migranti restano senza cibo. Che cosa sta succedendo, Marmo? Sì, dunque, a Ventimiglia evidentemente da due anni, a causa della chiusura della frontiera della Francia, e si ha una permanenza di molte persone, di migranti in transito che vorrebbero proseguire verso altri paesi europei e appunto a causa della difficoltà a passare la frontiera rimangono alcuni giorni sì. In città. E lo sappiamo, Marmo, abbiamo raccontato sì. Anche quello che è avvenuto quando c'è stato lo sgombero, che poi un vero e proprio sgombero non è stato, del torrente Roia. Abbiamo sentito sì. Ieri il sindaco, insomma la raccontiamo spesso Ventimiglia perché è un sì. Confine molto delicato. Ma come mai state decidendo di non fornire più pasti? Ma ci sono due ragioni. La prima è che abbiamo iniziato a dare i pasti proprio a febbraio, perché era un servizio che noi non facevamo, ma l'abbiamo avviato perché a fine gennaio il campo del Parco Roia, gestito dalla Croce Rossa su mandato della prefettura, non poteva accettare nuovi ingressi per dei lavori che dovevano essere fatti, e quindi decine di persone, ahimè, sono state costrette ad accamparsi davanti alla stazione o lungo il fiume Roia, e quindi in mancanza di un'assistenza abbiamo avviato questo servizio. Dato che la scorsa settimana finalmente il campo, diciamo, ha ripreso l'accoglienza già in precedenza nei mesi scorsi, però i numeri erano comunque insufficienti alle persone che erano presenti a Ventimiglia, perché si è arrivati ad un massimo di 300 posti e c'erano fuori almeno altre 200 persone. Quindi abbiamo continuato questo servizio finché la scorsa settimana è stato deciso che possano entrare tutte le persone al campo e dunque potranno beneficiare dei servizi al campo. Quindi noi che abbiamo fatto questo intervento di alcuni mesi lo interrompiamo per questa ragione, e la seconda è anche che appunto i numeri dei passaggi delle presenze da noi sono stati molto elevati proprio in questi ultimi giorni, anche 400-500 persone. E i nostri ambienti, i nostri spazi sono veramente piccoli. Non reggete dal punto di vista logistico, ancora quindi, prima, no? Che... sia logistico, sia appunto sì, di gestione generale, ma la motivazione poi ulteriore e importante è che questo servizio era temporaneo dovuto a questa esigenza. Adesso che il campo è riaperto per tutti, cerchiamo il più possibile di indirizzare le persone al campo. Ascolti, la pressione sul confine sta crescendo in questi ultimi giorni oppure no? Perché su questo non riusciamo ad avere un quadro chiaro e preciso. Abbiamo visto la vicenda del torrente Roia, ma è chiaramente stato un episodio, però non riusciamo a capire quanto tutto questo poi si rifletta sul confine, quello che vediamo anche in termini di sbarchi, Marmo. Ma io direi che più o meno siamo nella situazione della scorsa estate, per ora probabilmente a numeri. Comunque in questo momento presso il campo sono ospitate 500 persone, quindi c'è stato in questi giorni appunto un ingresso ulteriore importante, e però ci sono ancora persone anche fuori che sono ancora, a volte anche per una mancanza di informazione o di corretta informazione, e non sono ancora andate al campo, quindi diciamo il passaggio e la presenza è significativa. In questi ultimi giorni sicuramente c'è stato un incremento e i numeri appunto si avvicinano a quelli dell'anno scorso. La ringrazio, grazie Maurizio Marmo, direttore della Caritas di Ventimiglia, per essere stato con noi. E siamo in linea con un altro coordinatore della Caritas, che è il coordinatore della Caritas di Saluzzo, che è Alessandro Armando. Buongiorno Armando, benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. Allora, qua parliamo della vicenda di queste 300 persone, quindi questi stagionali che periodicamente arrivano là a Saluzzo appunto. Perché? Perché c'è il periodo della raccolta della frutta. In gran parte, lo dico agli ascoltatori che ci scrivono su questo, mi sembra di aver capito che sono regolari in Italia, arrivano là e arrivano per la raccolta della frutta, e ogni anno a Saluzzo si crea questo problema per cui si trova della gente che non si sa dove far dormire. Ho capito bene? Sì, ha capito benissimo. È un fenomeno che si verifica non da sempre, ma dal 2008, cioè dal periodo della crisi dell'industria, la piccola e media industria italiana. Infatti le prime persone che sono arrivate a Saluzzo, e che ancora oggi a quasi 10 anni di distanza ogni maggio ritornano a Saluzzo, sono persone immigrate, solitamente di origine africana, che avevano un lavoro in Italia, che lavoravano nell'industria italiana, che hanno perso il lavoro e che si sono per certi versi reinventati nuovamente migranti, e quindi hanno iniziato a spostarsi. E la campagna del saluzzese nel periodo estivo, anzi estivo autunnale, da giugno a novembre, è uno dei poli ortofrutticoli più grandi d'Italia, e quindi gli arrivi sono dal nord-est d'Italia. E poi negli ultimi anni, quando l'afflusso è decisamente aumentato, il numero di 300 e il numero 350 che noi stiamo verificando su quest'anno, l'anno scorso nel picco della raccolta nella nostra Caritas abbiamo registrato 650 uomini. Sì. Quindi questi nuovi arrivi arrivano anche dal sud Italia, quindi da una stagionalità che il nostro paese, le nostre due punte di paese permettono. La gestione di tutto questo, mi sembra di capire, Armando, è piuttosto complicata, no? Sì, la gestione di questo è assolutamente complicata, sostanzialmente per due motivi. Il primo è perché sostanzialmente una stagionalità e una manodopera non saluzzese c'è sempre stata nelle nostre campagne, ma era una manodopera che veniva assorbita o all'interno delle aziende stesse per quanto riguarda il vitto e alloggio, o dal sistema dei flussi, questo soprattutto negli anni 90. quando il sistema dei flussi prevedeva da parte del datore di lavoro anche l'obbligo di sistemazione alloggiativa. Quindi noi ricordiamo, sì, solo una ventina di anni fa, persone di origine polacca che facevano la stagione nel Saluzzese. Questo, essendo queste persone residenti in Italia, quindi che non arrivano da fuori, non entrano nel sistema dei flussi, non c'è questo obbligo di accoglienza. E essendoci, dobbiamo dirlo, degli agricoltori e anche delle forze del mondo agricolo che si adoperano per una forma di vitto e di alloggio per i loro lavoratori, la gran parte di questi lavoratori, pur avendo la possibilità di lavorare anche per alcuni mesi, non ha questa, sì, non può usufruire di questa possibilità, e quindi si crea sostanzialmente una situazione di senza tetto, che è soprattutto concentrata nella piccola cittadina di Saluzzo e non nei paesi attorno, che sono poi quelli più potenti dal punto di vista ortofrutticolo. Certo. Allora, la ringrazio. Quello che ci serviva era una descrizione della situazione, perché qua quello che si dice, un ascoltatore dice: anch'io sono regolare in Italia, ma nessuno mi dà da dormire gratis, smettete di prenderci in giro. Si sta facendo un altro ragionamento, si sta facendo il ragionamento di quello che succede in una piccola cittadina come Saluzzo, nel momento nel quale si verifica un fenomeno periodico, che come sempre in questo paese fatichiamo a tenere sotto controllo, dei fenomeni periodici che ci sembrano transitori ma poi in realtà sono strutturali, come in questo caso, e semplicemente non ci si pensa, e poi ogni estate ci si ritrova con la gente accampata, ma che siano senegalesi, italiani o di qualsiasi altra nazionalità non ci importa, cioè ci si trova di fatto con una specie di accampamento, con i container, con i toy toy per, come bagni, eccetera eccetera, e non è certamente una bella situazione, presumibilmente nemmeno per gli abitanti di Saluzzo. Lamberto Bertelè, Presidente del Consiglio Comunale di Milano, buongiorno. Buongiorno a voi. E benvenuto ai nostri microfoni per parlare, e cambiamo decisamente argomento, invece, come dire, della, oppure se vogliamo tenerci sullo stesso tema, della migrazione verso lo stadio dei consiglieri comunali di Milano, ossia della famosa vicenda dei biglietti gratis che sono dovuti e che spettano in un certo numero a ciascun consigliere comunale di Milano e che riguardano, ho scoperto, Bertelè, perché non lo sapevo, anche i concerti, e come dire, ne hanno usufruito in parecchi, no? Sì, allora la storia è questa, che tra il Comune di Milano e le società sportive c'è una convenzione legata all'utilizzo dello stadio che prevede 320 biglietti per ogni evento sportivo che si svolge a San Siro a vantaggio del Comune, biglietti che non possono essere commercializzati e rivenduti. Fino a un anno fa questi biglietti venivano dati in automatico a consiglieri, dirigenti, varie figure, e quello che noi abbiamo fatto l'anno fa è interrompere questo automatismo e responsabilizzare ogni consigliere rispetto alla possibilità o meno di chiederli, ma con il vincolo di destinare tutti i biglietti non ritirati a associazioni, cooperative sociali, associazioni che si occupano di minori in difficoltà, anziani, persone con disabilità. Questo ci ha consentito di evitare lo spreco, perché purtroppo in passato biglietti venivano distribuiti in modo automatico, non utilizzati, e avevamo spazi anche vuoti, quindi come dire, sì, dal punto di vista del cittadino, oltre al danno, sì, la beffa. Il fatto è che la roba vale, pure questa cosa vale evidentemente anche per i concerti, no? E come si diceva, no? Li hanno ritirati. Quanti? 500? Sì, 500 biglietti? Guardi, quanti ne hanno ritirati? Un gruppo di consiglieri, tra cui il sottoscritto, ha scelto di non ritirarli, ma come scelta personale. Io personalmente credo che in un momento in cui la politica ha il dovere di recuperare un rapporto con l'opinione pubblica e di ridare anche legittimità, prestigio a chi ha ruoli istituzionali, penso che sia un segnale importante rinunciare a questa cosa. Poi dal mio punto di vista non mi sento di criticare chi li utilizza, perché questi biglietti non sono un costo per il Comune, perché non possono essere venduti. Abbiamo però aperto un percorso con l'obiettivo di trovare le modalità invece di venderli, sì, di modificare non si può proprio abolire questa cosa, perché guardi che è veramente fastidioso, cioè l'idea che ci siano dei consiglieri comunali che possono andare gratis ad un concerto dove magari i biglietti possono arrivare a cifre anche notevoli, tra l'altro, come dire, un consigliere comunale di Milano non è come un consigliere comunale, siamo appena stati a Saluzzo, di Saluzzo, insomma qualche euro in più lo guadagna evidentemente, è un po', lo capite, è un po' fastidioso, no? Diciamo che un consigliere comunale non fa parte in nessun modo della casta, non stiamo parlando di consiglieri regionali o d'altro con altre indennità eccetera. Detto questo, se oggi non ci fosse questo meccanismo della redistribuzione alle associazioni, quei biglietti sarebbero persi, nel senso che non possono essere venduti. Quello che vogliamo fare è quello che abbiamo fatto con la Pina della Scala. Noi con la Pina della Scala abbiamo denunciato come consiglieri. Ma come ci si assicura che, come ci si assicura che non li vendano? Beh, questo fa parte delle responsabilità personali. Questo assolutamente fa parte delle responsabilità personali. Ognuno è responsabile di quello che fa. No, per carità, solo per sapere. È responsabile chi li ritira, è responsabile chi non li prende. Ognuno è responsabile di quello che fa. Io personalmente ho fatto una scelta da diversi anni, non li prendo. Ovviamente a volte mi dispiace, a volte meno, ma penso che sia un segnale giusto nei confronti dell'opinione pubblica. Sì. Se altri consiglieri ritengono invece di utilizzarli, sono loro responsabili della loro scelta. Non mi sento di giudicarli, penso insomma al mio operato e non a quello degli altri. Detto questo, come Presidente del Consiglio ci stiamo attivando per capire se questa convenzione può essere modificata in modo tale da poter vendere questi biglietti e avere un introito per l'amministrazione comunale, e su questo penso che nessuno avrebbe nulla da dire. Alla questione. Quindi noi per la Scala, rinunciando alla prima, in questi anni abbiamo incassato ogni anno circa 180.000 euro, sì, che sono dati tutti a attività sociali. Questa è una cosa che facciamo dal 2011, quindi io penso che questa sia la direzione da seguire assolutamente. La ringrazio, grazie per essere stato con noi. Grazie, Alberto Bertoletti, Presidente del Consiglio Comunale di Milano. Forse vorrete anche qualche nome. 27 dei consiglieri comunali si sono presi tutti i 14 biglietti che spettavano loro, tra cui Matteo Salvini per la Lega, Paolo Limonta di Sinistra per Milano, Diana De Marchi, Angela Vasile, Bruno Ceccarelli del PD, Fabrizio De Pasquale, Silvia Sardone, Gianluca Comazzi di Forza Italia. Curioso che l'assessore alla cultura del Corno non si sia preso nemmeno un biglietto gratis, niente male. Ci fermiamo, c'è la borsa e poi ci ritroviamo. Il nostro Giro per l'Italia ci riporta a Roma per parlare però di incendi, perché ce ne sono veramente parecchi in questo periodo. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per sms e whatsapp e la diretta video su Facebook e sulla pagina di Radio 24 su quella di Effetto Giorno. I nostri titoli: a Tallinn il vertice per parlare di immigrazione, la Spagna dice i nostri porti sono già sotto pressione, Bruxelles ribadisce bisogna aiutare l'Italia. Russia aggressiva e destabilizzante, dice Trump da Varsavia, e aggiunge ha interferito nelle elezioni americane. Omicidio stradale, 32 arresti e 479 denunce dall'introduzione del reato, aumentano del 7,4% le vittime della strada nella prima parte dell'anno. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Oh, mea culpa, siamo andati lunghissimi, vi ho promesso che avremmo parlato degli incendi a Roma, non ce la facciamo. Ce la facciamo invece a parlare di omicidio stradale, perché oggi sono stati presentati dati a 15 mesi dal Via Libera, queste nuove norme che prevedono l'omicidio stradale, e si parla di 32 arresti, 479 denunce. Maurizio Caprino del Sole 24 Ore ha seguito la conferenza stampa di presentazione di questi dati, che riguardano appunto i primi 15 mesi. Maurizio, buongiorno innanzitutto. Buongiorno, buongiorno. A voi. Allora, che quadro ne emerge? Ma ne emerge un quadro che avevamo percepito e previsto appunto 15 mesi fa sul Sole 24 Ore, ossia avevamo stimato che l'applicazione sarebbe stata abbastanza minimale, cioè avrebbe riguardato un campione piuttosto limitato, poi delle persone che provocano incidenti con danni a persone. E in effetti emerge che sono stati la polizia stradale intervenuta su 486 incidenti, ha indagato solo 388 persone, perché poi gli altri sono morti, e di queste nell'incidente stesso, e di queste 388 persone ben 215 sono ricadute nell'ipotesi meno grave, che è praticamente identica al vecchio omicidio colposo. Quindi alla fine chi è ricaduto nelle ipotesi che danno la pena aggravata è una parte abbastanza limitata del campione, questo appunto era prevedibile. La maggiore incidenza invece che ha avuto questa legge è un'incidenza culturale, perché oggi noi dopo ogni incidente mortale diciamo che il responsabile è indagato per omicidio stradale, questo dà un disvalore sociale che fa percepire a tutti il fatto che commettere, diciamo, essere responsabili di un incidente mortale non è essere responsabili di una fatalità, ma essere responsabili di una vera e propria violenza, è un crimine violento, quindi è una valenza più sociale, e questo l'ha sottolineato anche il capo della polizia Gabrielli prima ancora di presentare i dati, aveva un po' messo le mani avanti, nel senso aveva detto non dovevamo aspettarci miracoli. Perché è una questione, diciamo, la sicurezza è una questione soprattutto culturale, non di repressione, e quindi indirettamente Gabrielli si era un po' presa con la politica, che invece aveva caricato nel dibattito politico che ha preceduto l'approvazione di questa norma, l'aveva molto caricata di significati, come purtroppo spesso capita. Io ti ringrazio, grazie a Maurizio Caprino per questo aggiornamento per quanto riguarda l'omicidio stradale. Noi dobbiamo andare a chiudere, c'ho Roberta Frisani in regia che mi guarda malissimo, malissimo. Andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.